Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti a voi. È il tema di queste settimane, la pedofilia, che in questi giorni viene declinata, in particolare in relazione allo scandalo relativo agli abusi intervenuti in scuole e collegi della Germania e del Nord-Est, ma chi lavora nel settore sa che il problema degli abusi sessuali sui minori non può essere relegato in specifici ambienti. Purtroppo è diffuso in tutte le classi sociali e in tutte le culture. Allora oggi cercheremo di vederlo sia dal punto di vista dell'abusante che da quello della vittima. Cercheremo di capire cosa serve per affrontare in modo competente questo tema e intanto vi presento gli ospiti di oggi. In studio qua con me Alberto Pellai, medico, specialista in medicina preventiva, lavora come ricercatore all'Università di Milano e papà di questa casa non è un albergo. Alberto, ciao e grazie per essere qua. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Tra l'altro tu sei stato il primo a importare dall'America approcci preventivi. Non ci sono categorie più a rischio, un po' come succede con gli uomini violenti, anche il pedofilo è distribuito per età e classi sociali. Io ci tengo a fare questa premessa per spazzare via il campo da inutili polemiche. Alberto, credo che affrontando questo tema oggi sia proprio importante lavorare insieme come una comunità di adulti che ha in mente di proteggere i bambini e non di condannare questo o quell'altro sottogruppo della nostra società, per cui facciamoci proprio la domanda: che cosa serve a un bambino per non essere vittima, che cosa serve a un bambino vittima per uscire dal problema, come si può aiutare un abusante eventualmente. Abbiamo in linea con noi la dottoressa Marina Valcarenghi, psicoterapeuta, autrice di numerosi libri, tra cui cito Ho paura di me, il comportamento sessuale violento, Bruno Mondadori. Dottoressa, buongiorno, grazie buongiorno per essere con noi. Insieme a lei ci occuperemo dell'aggressività maschile e mi sono tenuta per ultimo un ospite a cui io tengo in modo particolare, che finalmente ho l'onore di avere qua in studio con me, la professoressa Paola Di Blasio, ordinario di psicologia dello sviluppo presso la facoltà di psicologia dell'Università Cattolica di Milano. Finalmente buongiorno e grazie professoressa Di Blasio. Grazie, buongiorno, sono molto lieta di essere con voi. Insieme alla dottoressa Di Blasio parleremo del profilo dell'abusato. Non è facile raccontarlo, anzi no, è proprio difficile, però io voglio che tu sappia quello che è successo oggi a Fatalina. Oggi ha subito le attenzioni sbagliate di una persona che conosceva, di cui credeva di potersi fidare. Che cosa significa? Significa che quella grande mano che Fatalina ha disegnato sopra il suo ritratto era una mano che non avrebbe mai voluto sentire su se stessa, sul suo corpo. Una mano che l'ha toccata trasmettendole una sensazione spiacevole, sempre più difficile a sopportarsi. E Fatalina, lì per lì, non l'aveva capito, mentre la paura e la vergogna le toglievano qualsiasi parola dalla bocca. Il segreto di Fatalina, Nuova Eri, Erickson edizione, prendiamo proprio il passo da qui e comincerei con fare la domanda che probabilmente in molti si pongono. Dottoressa Valcarenghi, com'è possibile che una persona adulta sperimenti una tensione sessuale verso un bambino? Non solo è possibile, ma in altre culture è assolutamente normale. È questo che noi dobbiamo metterci in testa, che noi siamo nella nostra cultura, nella nostra civiltà, e per noi non è solo la pedofilia un comportamento sanzionato, ma i contorni del tabù, e quindi è qualcosa che ci riempie di orrore e di indignazione, ed è giusto che sia così. Ognuno di noi vive nel suo mondo, ma secondo una ricerca dell'ONU ci sono 60 milioni di bambine fra gli 8 e i 14 anni che sono sposate. Questo vorrà pure dire qualcosa, vuole dire quindi che nella nostra cultura, essendoci il tabù della pedofilia, la pulsione rimane vietata, rimane nell'inconscio e non emerge mai alla coscienza se non in casi straordinari. Ma in alcuni casi, a seguito di traumi, a seguito di un'assenza di costruzione morale, insomma a causa di qualche cosa che è successo, succede che la pulsione emerga dall'inconscio e possa addirittura travolgere i freni inibitori. Professoressa Di Blasio, quando si può parlare di abuso sessuale nei confronti di un bambino? E che cosa succede nella testa del bambino? Ma vi sono evidentemente delle normative in Italia che definiscono cosa significhi abuso, atti di libidine, violenza che è comunque implicita in ogni comportamento sessuale o sessualizzato nei confronti di un bambino. Sulle conseguenze ormai è evidente a tutti che siano molto molto gravi. Dipende ovviamente dalle caratteristiche della violenza. La violenza e l'abuso relazionale è molto più grave rispetto alla violenza o al trauma per altre cause. Quindi evidentemente gli abusi sessuali accompagnati a volte da maltrattamenti, altre volte no, accompagnati da seduzione oppure no, e quindi di diverso tipo, con diverse sfaccettature, determinano delle gravi conseguenze a cui il bambino può essere in grado di reagire se ha certe condizioni, certi fattori nel suo contesto culturale, tra cui anche la possibilità di poter dire quello che gli è accaduto. E questo dipende molto dalla risonanza culturale. Se culturalmente vi è l'idea trasmessa da tutti che l'abuso comunque è un fenomeno grave che colpisce la psiche ed è dirompente per un bambino, evidentemente vi sarà una maggiore capacità del bambino di rivolgersi a persone protettive. Certo. Alberto, quale deve essere la differenza di età tra una persona più grande e un minore per far parlare di abuso? E soprattutto perché la differenza di età è così importante? Noi stiamo parlando di bambini, ma fino a quando si parla di bambini? Ma in realtà parliamo di bambini intendendo proprio la minore età, e la differenza di età è molto importante in età evolutiva, tant'è che a volte un bambino può essere vittima di abuso da parte di un altro minore. Cioè, prova a pensare un bambino di 8 anni che viene coinvolto in attività connotate sessualmente da un 14enne o un 15enne. Quel ragazzo ha esperienza di vita che è il doppio rispetto alla vita che ha vissuto il bambino di 8 anni, e tra l'altro ha un funzionamento mentale completamente differente, molto più evoluto. Quel ragazzo ha la capacità di comprendere le conseguenze di quello che sta facendo, il bambino invece no. Ed ecco perché per parlare di abuso effettivamente la differenza di età di 5 anni, lo dice anche il DSM-IV, che è il manuale di diagnosi psichiatrica, è molto importante, perché significa che la persona più grande può davvero manipolare, imporre potere anche attraverso la seduzione sulla sua vittima, e quindi in qualche modo fare di lei, cioè non c'è consenso, ecco, non c'è capacità di stare dentro al medesimo evento con la stessa competenza e consapevolezza, e quindi la persona più piccola è certamente vittima. Professoressa Di Blasio, la vittima spesso non parla. Forse adesso, negli ultimi anni in cui si fa prevenzione, si parla di abuso, forse vedremo i risultati nei prossimi anni, ma ci sono persone, adulti, che sono stati bambini abusati e che ancora tengono questo segreto dentro di sé, e la loro vita è cambiata, è cambiato qualche cosa. Quando diciamo che è un trauma che non si può dimenticare, diciamo poco, perché condiziona poi tutta la vita. Condiziona tutta la vita per diversi motivi. In primo luogo perché ciò che non può essere verbalizzato continua nella mente in ogni modo ad agire in maniera a volte ripetitiva. E un altro motivo molto particolare che ha modificato anche tutta la psichiatria è che queste esperienze infantili a volte hanno degli esiti di cui la stessa vittima non riesce a determinare il collegamento, non riesce a determinare la connessione. Quindi delle esperienze non elaborate, negative, che hanno determinato allarme, che hanno determinato paura, iperattivazione quando un bambino è piccolo, poi nel corso del tempo si integrano male nella vita della persona e possono emergere successivamente dei sintomi gravi di cui l'individuo non si rende conto, di cui non coglie la connessione con il passato. Dottoressa Valcarenghi, spesso si sente dire, ma vorrei confrontarmi con lei e con i miei ospiti, che il pedofilo è molto probabilmente un bambino che ha subito, da bambino ha subito violenza. È corretto? Può essere questo un fattore che predispone poi all'aggressività, alla pedofilia? Non è così semplice da dire, perché può essere una causa, certo, ci sono persone che sono state abusate da piccoli e che da grandi diventano a loro volta abusanti. Però ci sono molte persone che sono state abusate che non diventano abusanti, e anche molte persone che diventano abusanti senza mai essere state abusate. Per cui questo criterio può essere utile, può essere uno dei criteri possibili, ma guai a pensare che sia l'unico, guai a pensare che la catena dell'abuso, così viene chiamata, sia l'unica causa scatenante del sintomo pedofilo, perché questo non corrisponde a verità. Ci sono persone che sono state abusate che presentano altri sintomi. Quello che possiamo senz'altro dire è che l'abuso in età infantile, come è stato detto dalle altre persone che mi hanno preceduto, sicuramente lascia sempre tracce, che si tratti di un sintomo di alcolismo, di una pulsione suicidale, di un ripetere il comportamento pedofilo o altro ancora, comunque lascia segni nella personalità di una persona anche quando diventa adulta. Vi leggo un messaggio di Max da Como che così riporta anche altri, contiene all'interno anche altri spunti che sono arrivati da altri messaggi. Max ci scrive: mi può togliere una curiosità, per quale motivo non si sente parlare di pedofile, non saprei come dire, donne? È prerogativa solo maschile, Alberto? È una domanda molto interessante. Intanto va in continuità con quello che diceva la dottoressa Valcarenghi. Non c'è un nesso causa-effetto tra essere stati vittime e diventare abusante, perché se così fosse noi avremmo la maggior parte degli abusanti proprio nella popolazione femminile, che costituiscono percentualmente la maggior parte delle vittime. E invece le donne, almeno negli studi pubblicati, non superano del 5-10% la quantità totale degli abusanti in questo sottogruppo. Il che significa che probabilmente entra in gioco qualcosa d'altro, che è molto associato anche al modo di vivere la pulsionalità sessuale e probabilmente anche inserito nella cultura e nel contesto socioculturale al maschile. Per un uomo probabilmente è più facile entrare in una relazione sessuale sconnettendo la dimensione relazionale ed emotiva, ed ecco perché gli uomini più frequentemente possono poi entrare nel comportamento sessuale violento. La donna, proprio per, se vuoi, per cultura, ma anche proprio per come è fatta, molte volte deve associare alla sessualità la dimensione emotiva e relazionale. Questo immediatamente la rende incapace di entrare in un atto sessuale violento. Allora, abbiamo iniziato a mettere sul tavolo alcuni spunti, alcuni elementi, e adesso vorrei passare la parola a voi che ci seguite da casa. Avete parlato di questo tema con i vostri figli? Che genere di prevenzione avete ritenuto possibile condividere con loro? Mi rivolgo ai genitori un po' con figli di tutte le età. E poi sarebbe molto importante ascoltare qualche storia avvenuta anni fa da chi l'ha vissuta proprio sulla pelle. So di chiedervi molto, ma su questo tema la testimonianza della vittima può aiutare altre vittime. Quindi, se volete e potete, naturalmente potete chiamarci. Queste cose lasciano un brutto segno nella memoria. Però io voglio che tu sappia una cosa molto importante. Dentro di noi c'è un armadio dove si devono conservare anche questi brutti ricordi, perché non si ripetano più, perché si possano aprire le ante e guardarli e riguardarli senza più terrore, perché raccontarli e confidarli alle persone che ci vogliono bene e che ci proteggono significa togliere a quei ricordi, a quelle brutte esperienze, il potere della paura. Parlarne, quindi, professoressa Di Blasio, però difficile, non no? Non è facile. Perché sembra di avere la soluzione in tasca, invece questo armadio tante volte non solo resta chiuso, ma gli viene proprio messo una catena. Parlarne a chi, in primo luogo? Una delle condizioni peggiori di rischio è non sapere a chi parlarne, non sapere, in altri termini, di chi fidarsi. E quindi questa effettivamente è quella condizione aggravante che dicevamo prima, delle conseguenze. Parlarne non significa esprimere l'emozione, parlarne significa elaborare l'emozione, quindi già il termine parlare significa un complesso di elaborazioni mentali che permetta di capire le sfaccettature dell'evento. Quindi come primo elemento importante è trovare all'interno dell'ambiente delle figure di riferimento che permettano l'espressione di eventi negativi. Omar ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Omar, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno a lei, suo interlocutore. Sì, la mia domanda, io ho tre bambini, il più grande ha 5 anni e mezzo, e c'è da un mesetto così inizio a dire, magari tipo il modo, vi dico anche il modo in cui lo dico, gli dico stai attenti che in giro ci sono anche dei cattivi, non tutta la gente è buona, e tu ci sono posti, c'è la tua intimità e gli indico i posti che c'è il divieto, nessuno te le può toccare oltre al medico e i tuoi genitori. Non sì. So se anche sta precoce a questa età o magari a 5 anni e mezzo. E poi un'altra mia preoccupazione, io vedo che spesso magari, come che io sono straniero, in Occidente vediamo magari lo stato dei diritti, spesso mi capita di sentire dei forum delle libertà sessuali, tipo 3 anni fa c'è stato uno in Australia che ha 16 anni, hanno il diritto. Non è che c'è il pericolo che più in là con i diritti, tutti questi diritti, anche i bambini avranno i diritti al loro rapporto sessuale, non so, a 10 anni, a 12 anni, e non diventerà più una pedofilia, e questa è la mia preoccupazione. Grazie, buongiorno. Grazie Omar. Alberto, noi abbiamo proprio, anche in occasione di questa, di una trasmissione di Questa casa non è un albergo, parlato ai genitori su che cosa devono dire per fare prevenzione. La prevenzione inizia proprio tra le mura domestiche, e quindi parlarne ai propri figli con parole chiare, con dei messaggi, in modo che si possano veramente rendere già piccoli ma assolutamente responsabili. Sì, direi che per i bambini piccolissimi il consiglio che dava Omar è un buon consiglio, cioè i bambini hanno proprio bisogno di regole, condividere regole con i genitori, regole che hanno un significato protettivo, quindi per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola materna, una mamma e un papà che proprio parlano dei tuoi organi genitali, il tuo pene, la tua vagina, il tuo pisello, la tua patatina, ognuno ha i suoi termini, sono tuoi e soltanto tuoi e quindi non possono essere toccati da nessuno. Questa è una regola, dovesse succedere che qualcuno vuole farlo con te, devi subito parlare a mamma e papà. Secondo me questa è una regola molto chiara, molto precisa, che i bambini poi nel momento in cui la vedono non rispettata nel loro ambiente di vita, la riportano ai genitori, proprio anche in situazioni magari non pericolose. La storia per esempio del mio bambino Jacopo, un giorno è tornato a casa dall'asilo e diceva c'è un mio compagno Paolo che spesso vuole tirare giù i pantaloni e le mutande ai loro compagni per fargli uno scherzo, e secondo me in quel momento stava proprio riferendo a mamma e papà l'esperienza di un bambino che non aveva la stessa regola protettiva che era stata insegnata a lui, ma in quel momento ci stava anche informando di una cosa molto importante che chiaramente lo aveva messo a disagio e sentiva che con noi poteva condividere. Ecco, questo è un esempio di parole che possono semplicemente essere condivise con i bambini e che hanno un significato preventivo. E arrivano le parole, arrivano gli sms, perché forse è difficile raccontarlo, proprio far uscire, no? questo problema. Sono stato abusato da piccolo da un vicino di casa, non ho mai parlato con nessuno. Ora ho 50 anni e ho un sentimento protettivo su tutti i bambini. Sono stata sottoposta a molestie sessuali, non ricordo da che età, ma meno di 6-7 anni, da mio nonno. E più passa il tempo e più mi sento a disagio. Ora ho 44 anni, mi ha causato problemi nelle relazioni sociali, chissà come sarei se non fosse successo. Se ne può comunque parlare, non è mai troppo tardi, professoressa Paola Di Blasio? Assolutamente, non è mai troppo tardi, proprio per evitare che questi continui pensieri che non si dimenticano, questi elementi soprattutto quando derivano da persone significative della famiglia, continuano ad agire nella mente e determinano un disagio con se stessi e con gli altri, a volte anche delle difficoltà, senso di vuoto, depressione, senso di inutilità, e poterne parlare significa poterlo in realtà capire, non dimenticarlo, ma tenerlo come un elemento elaborato, un elemento su cui in realtà si riflette. 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666, arrivano tantissimi messaggi. Faremo passare, immagino, anche alcune telefonate di persone che vogliono magari capire come fare prevenzione, come individuare le persone più a rischio, come far parlare i propri bambini o persone che vogliono liberarsi da questo peso del cuore. Ho nascosto quella cosa in fondo a me, perché se non la vedo, lei non c'è. Non ne parlo per non essere più triste, perché se non la dico, non esiste. Ma laggiù, in fondo a me, nel buio denso, anche se non la vedo, io ci penso. E lei beve quel buio come inchiostro e cresce sempre più, diventa un mostro. Ma io so cosa ai mostri fa paura. Il sole che taglia in due la notte scura. Apro la mia finestra a questo sole ed apro la mia bocca alle parole. Ne parlo con la mamma, con l'amico. Tu mi spaventi, mostro, e io ti dico. E tu ti sciogli in un po' di porcheria. Mi dai un ultimo morso e fuggi via. Mi rimane una bella cicatrice dove è scritto: mostro morde, uomo dice. Torniamo ad affrontare il tema di oggi, un tema duro ma che vogliamo condividere e parlare con voi, pedofilia, un tema in cui le parole fanno la differenza, considerato che quasi sempre è tenuto nel silenzio e nel segreto. E a proposito di silenzio, voglio leggervi un messaggio: come dovrebbe reagire un genitore con cui si riesce a confidarsi? Io avevo 8 anni e quando sono riuscita a parlare con mia madre, la sua risposta è stata il silenzio, che a me è pesato come un macigno. Professoressa Di Blasio. Questa è una seconda ferita. Un adulto che risponde con il silenzio aggrava ancor di più quello che è accaduto, perché il mondo diventa veramente imprevedibile, non ci sono più persone di cui fidarsi. Quindi la reazione dell'adulto dovrebbe essere una reazione di accoglienza, prima di tutto, di comprensione per quello che è accaduto ed eventualmente di elaborazione di misure di protezione obiettive nel reale, non di fantasia. E quindi evidentemente vi sono parecchie cose: quando emerge un problema di questo tipo ci si può consigliare con degli esperti, con dei centri, per capire che cosa sia meglio fare, ma certo il silenzio è un'altra violenza. Paolo di Como, da Como, buongiorno Paolo, grazie. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io le dico che quando avevo 9 anni ero un bel bambino, con gli occhi azzurri, biondino, e purtroppo ho avuto le attenzioni di un caro amico di famiglia, come capita sovente, no? E l'ho raccontato a mio padre, così, e mi hanno quasi detto che era colpa mia, come se un bambino di 9 anni riuscisse a capire alcuni atteggiamenti, se vanno bene, se vanno male. Certo. Io sto parlando e sto tremando ancora, che immagino. E dico la verità, sono sempre, anche poi mi è capitato più tardi, quando ero in treno, di una persona che si è avvicinata spacciandosi come un regista e voleva inserirmi nel mondo dello spettacolo e cosa, lei era un po' più grande, ho reagito e mi è andata bene. Certo. Diciamo. Ecco, l'importante appunto è parlarne. Io mi ricordo, cioè io ne ho parlato solamente con mia moglie, perché lei si è accorta, vivendo con me, che il comportamento sessuale secondo lei era... c'era qualcosa che non andava nel mio comportamento, non che avessi morbosità particolari nel stare con lei, però si è accorta che a volte avevo una rabbia dentro e mi diceva: ma cosa c'è, cosa ti ho fatto? E alla fine poi, guardi, mi viene da piangere, alla fine poi gli ho parlato e gliel'ho detto. Che era successo. Mi scusi. No, Paolo, sono io che ringrazio lei, perché mettere a disposizione nostra la sua storia è davvero un atto di grande coraggio e siamo veramente molto riconoscenti a lei che ha portato la sua storia qua tra noi, perché la storia di chi l'ha vissuto, io ho degli esperti che si sono appassionati, hanno studiato il problema, l'hanno sviscerato, ma in questi questi casi, Alberto, chi ce l'ha sulla pelle è la persona che più può parlare e più può fare la differenza. Grazie Paolo, grazie davvero. Alberto. Sì, io dico intanto proprio per Paolo, grande stima, grande rispetto, proprio grande affetto per la capacità con cui ha saputo raccontare e condividere con noi la sua storia. Molto importante quello che ci dice rispetto al racconto di un bambino, e lo ha sottolineato anche la professoressa Di Blasio. Cioè, un adulto di fronte alla rivelazione di un bambino, come primo atteggiamento deve avere proprio quello di comunicargli vicinanza e protezione. Parole che fanno molto bene a un bambino sono: sei stato molto coraggioso a raccontarmi quello che mi hai raccontato, hai fatto la cosa migliore. Probabilmente siamo tutti disorientati di fronte a una comunicazione di questo tipo, e lo si può dire a un bambino. Cioè, io in questo momento non so proprio cosa fare per aiutarti, ma so che voglio aiutarti, perciò insieme vedrai che faremo la cosa giusta. Dammi tempo perché devo chiedere aiuto anch'io, ma hai fatto benissimo a parlare e insieme usciremo da questa storia. Dottoressa Valcarenghi, abbiamo detto che non esistono categorie a rischio, più a rischio di altre, il problema è uniformemente distribuito nelle classi sociali, nelle varie culture. Spesso il pedofilo viene descritto come un mostro. Anche alcuni sms mi dico ai miei bambini che ci sono uomini brutti e cattivi. Abbiamo anche raccoltato delle storie in cui l'abusante è una persona molto vicino alla famiglia. Ho letto il messaggio del nonno, un amico di casa. Ecco, io chiedo a lei, ci sono delle caratteristiche, possiamo in qualche modo capire dietro l'insospettabile, se si nasconde una persona che potrebbe essere un rischio, rappresentare un rischio serio per i nostri figli? Che esista la possibilità di riconoscere a priori, senza nessuna manifestazione concreta, la situazione, la condizione di un pedofilo. Ogni pedofilo poi è un caso a sé. Noi spesso, oltre che sentire dire i mostri, ma sentiamo anche dire i pedofili come se fosse una categoria omogenea, no? I pedofili sono anche molto molto diversi, no? C'è la pedofilia immaginaria, sadica, violenta, affettiva, narcisista, esibizionista. Ci sono tante forme di pedofilia e per ognuna di esse e in ogni caso c'è una causa, c'è sempre una ragione per cui nessuno nasce così, si diventa, emerge dall'inconscio questa pulsione che negli altri invece rimane sempre relegata, come del resto l'incesto, no? Emerge questa pulsione per un motivo e questo motivo va indagato e trovato, ma non è facile, per cui per rispondere alla sua domanda, come può essere possibile riconoscere un pedofilo senza conoscere la sua situazione, senza indagarla con lui? Moltissimi pedofili sono assolutamente, anzi la maggior parte, sono assolutamente insospettabili. In linea con noi abbiamo Don Fortunato Di Noto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Presidente dell'associazione Metra Onlus a tutela dell'infanzia. Don Fortunato Di Noto, rieccoci insieme. Salve. La Chiesa Cattolica, almeno sui media, è stata messa al centro dell'attenzione negativa su questo tema. E lei che vede e parla ogni giorno con molti credenti, come hanno reagito i fedeli a questo turbine di notizie che ha visto la Chiesa proprio sotto i riflettori? Ma io credo che la Chiesa sta reagendo in maniera sufficientemente positiva in tutti questi anni, cioè non è solo un problema di questi ultimi giorni. Dobbiamo essere onesti, è una vergogna per tutti pensare che alcuni sacerdoti si sono macchiati di questo gravissimo reato che ha fatto del danno ai bambini. Questo nessuno lo nega, nessuno, almeno da parte mia, lo nega, anche perché comunque questi sacerdoti si sono macchiati non dovrebbero mai fare i sacerdoti, quindi certo. Questo è bene precisarlo, come un padre che abusa di un bambino dovrebbe perdere immediatamente la patria potestà o la madre la patria potestà, quindi io credo che su questo non c'è un tentennamento, anzi al contrario, la comunità cristiana già da molto tempo si è attivata, del resto immaginate la nostra associazione Metre è nata 20 anni fa a tutela dell'infanzia contro la pedofilia, quindi io è da 20 anni che mi occupo di questi fenomeni, magari all'inizio lasciato solo, quando denunciamo per le prime volte la pedopornografia online tutti non ci credevano, oggi è un fenomeno diffusissimo, un fenomeno drammaticissimo, un fenomeno che non vede né tantomeno censure di internet, però quelle vittime fotografate sono bambini, sono certo. Migliaia e migliaia e migliaia di bambini. Avete precorso un po' i tempi, avete fatto un grande lavoro, Alberto. Sì, direi proprio, vorrei sapere da Don Di Noto negli ultimi 20 anni com'è cambiato il fenomeno della pedofilia online. Ma il problema è che non è cambiato la pedofilia online, perché la pedofilia è sempre onnipresente. Credimi, c'è una produzione di materiale, a volte sempre con bambini sempre più piccoli, il fenomeno della cosiddetta infantofilia, bambini tenerissime, tenerissime età, di un mese, due mesi, ma questo non lo dico per dirlo, li denunciamo ogni giorno alla polizia postale. Il problema è che non cambia la pedofilia, cambiano i canali di utilizzo per la diffusione. Ad esempio ora è di moda i social network, abbiamo noi fatti oscurare, censurare, ora aspettiamo i dati, 100 soltanto in America, è intervenuto anche il comitato di sicurezza americano con la polizia postale italiana, l'Interpol, quindi per dire gli utenti della rete, che anche qui molte volte uno dice ma tanto non fanno del male a nessuno perché usufruiscono del materiale, ma qui stiamo parlando di un'implantazione pedocriminale, di un'implantazione di bambini che vengono indotti alla prostituzione. È drammatico. Quindi, è veramente un fenomeno drammatissimo. Sì, è drammatico. Che come ho ascoltato, ed è giusto anche, io condivido in pieno chi mi ha preceduto, è veramente un fenomeno trasversale, un fenomeno difficilissimo a volte da affrontare, bisogna avere anche un grande equilibrio, stare molto attenti, aiutare soprattutto le vittime, perché questo è poi il problema più grande, e perché no? E anche gli abusanti, ecco, no? Questo stavo dicendo, perché no? Ecco, gli abusati se chiedono di essere aiutati, sì. In ogni stato democratico devono attivarsi tutte, certo. Quelle vittime carnefice. Certamente. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Valerio Cervellini, responsabile per la polizia postale delle comunicazioni dei programmi educazione alla legalità e navigazione sicura dei minori sulla rete internet. Dottor Cervellini, grazie per essere con noi e buongiorno. Buongiorno, grazie a voi e un saluto anche ai suoi ospiti, in particolare a Don Fortunato Di Noto. Don Fortunato ci ha portato su internet e abbiamo visto che il pericolo corre in rete e diventa sempre più sofisticato, raffinato, drammaticamente perverso. Che cosa state facendo e quali indicazioni vuole dare alle persone che ci stanno ascoltando? Sì, come è stato detto appunto... attualmente il fenomeno che sta emergendo nella sua interezza sono proprio i pericoli che corrono sui social network. Come Polizia di Stato, come Polizia Postale delle Comunicazioni, il capo della Polizia, il prefetto Antonio Manganelli, ha dato delle indicazioni ben precise di monitorare la rete internet e soprattutto fare in modo che i ragazzi, gli adolescenti, i bambini navighino in rete in assoluta sicurezza. È l'unica arma veramente incisiva per contrastare questo fenomeno, che peraltro è sempre esistito, la rete internet è soltanto uno strumento che viene, sì, utilizzato per queste pulsioni sessuali, è quella della prevenzione e della sensibilizzazione, perché vede, rispetto agli altri delitti, intervenire quando un minore è stato abusato, è stato violentato, è una sconfitta per noi poliziotti, certo, ma è soprattutto una sconfitta per la società civile, intera e civile. Quindi noi sensibilizziamo i giovani nelle scuole, ma soprattutto incontriamo le famiglie e formiamo gli insegnanti. Ultimamente stiamo portando avanti un progetto web in cattedra proprio per formare i docenti per proteggere gli studenti, ma la parte più importante, fondamentale, la devono avere le famiglie, i genitori, ecco, che devono affiancare i figli durante l'esplorazione della rete. Questo non dottor Cervellini, mai. Se un genitore si accorge di qualche cosa di strano, ha un sospetto, qualcosa insomma con quel sesto senso che molti genitori hanno ma che non riescono poi a capire se sia un problema serio, reale, oppure solo qualcosa, no, che si avverte per eccessivo timore, protezione, che cosa deve fare? Un consiglio chiaro, rapido, veloce? È portare il figlio dal medico pediatra, oppure rivolgersi a un servizio qualsiasi. Per sì, ma io stavo sulla rete. Se un genitore ha il sospetto, vede delle immagini nel computer del figlio, delle cose strane, chi deve chiamare? Rivolgersi immediatamente alla polizia postale e delle comunicazioni, alle forze di polizia in generale. Noi siamo presenti sulla rete internet con il commissariato di BS Online, che è un commissariato virtuale, quindi un posto di polizia virtuale dove è possibile accedere da casa e comunicare eventuali diciamo situazioni di pericolo, dei propri figli, anche dubbi, perplessità, certo. Situazioni magari che possono quindi creare allarmismo. C'è qualcuno che è pronto ad aiutarvi e ad ascoltarvi. Dottoressa Valcarenghi, siamo in chiusura e io volevo chiedere a lei, abbiamo parlato molto del soggetto abusato, l'abusante può essere curato, una persona che percepisce di essere un rischio e quindi sa di vivere questa pulsione, questo penso che sia anche doloroso, a chi si può rivolgere? Si può curare? Io penso proprio di sì, è ormai da più di 15 anni che mi occupo in terapia di soggetti violenti, sia stupratori che pedofili, ottenendo dei risultati, ma non vedo perché dovrebbe essere diverso. Se una persona, come lei dice, sente il disagio di questa condizione, si sente in colpa, vuole venirne fuori, non si vede perché non possa venirne fuori, dal momento che abbiamo detto tutto questo ha sempre una causa e un'origine, e quindi si tratta di ritrovare la causa e l'origine, di stabilire le connessioni fra il trauma, l'evento, la situazione che ha determinato questo comportamento, non diversamente da qualunque altro da qualunque altro problema di psicoterapia. E quindi certo, infatti mi piace chiudere anche con che venisse detto che esistono delle associazioni, che esistono dei terapeuti, che se si vuole, a cui se si vuole ci si può rivolgere. Ecco, lo stiamo dicendo, no? Infatti. Allora, dottoressa Valcarenghi, grazie per essere stata con noi. Ringrazio Don Fortunato Di Noto, il dottor Marco Valerio Cervellini, la professoressa Paola Di Blasio, Alberto Pellai. Grazie, ci avete aiutato, ma soprattutto ringrazio voi che con coraggio ci avete raccontato le vostre storie. Noi siamo sempre a vostra disposizione. Grazie davvero. Una puntata che avevamo nel cuore e che spero abbia raggiunto il cuore di molti di voi. Adesso cambio rapidamente argomento. Abbiamo pochissimi secondi, il tema richiederebbe molto di più, ma semmai ci torniamo. Oggi è la giornata mondiale della tubercolosi, una malattia trascurata e pericolosa, una malattia molto antica eppure difficilissima da debellare, infettiva, contagiosa, è causata da un bacillo che si trasmette per via aerea con il respiro, il paziente viene a contatto con questo bacillo, può restare infetto anche anni senza ammalarsi e quando si ammala la diagnosi è spesso tardiva, 3 mesi dicono i dati. Durante questo tempo il paziente può trasmettere inconsapevolmente la malattia con la semplice tosse. Noi abbiamo in linea il dottor Giorgio Besozzi, direttore del Centro di Formazione Permanente della Tubercolosi dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri di Villa Marelli all'ospedale Niguarda. Dottore, iniziamo questa breve un messaggio qui, poi metteremo la sua un'intervista più lunga e dettagliata sul nostro sito, ma intanto oggi per ricordare questa giornata così importante. Iniziamo a dare il messaggio e poi ci trasferiamo sul sito. Sì, ma l'importante è se ne parla soltanto in questa occasione della giornata mondiale della tubercolosi. Parliamo di una malattia che fa ancora 2 milioni di morti all'anno e lo scandalo è che è facilmente curabile con 20 euro di terapia, quindi anche a basso costo. Eppure non se ne parla mai, è una malattia che spesso è dimenticata, ma si sta riaffacciando anche nelle nostre latitudini, e non soltanto per problemi di globalizzazione, quindi di immigrazione, ma anche di fattori di rischio che possono colpire anche le persone normali attraverso le terapie, per esempio che deprimono il sistema immunitario. È un rischio che corriamo su. Quindi l'abbiamo archiviata e abbiamo fatto male. Potete sentire l'intervista al dottor Besozzi sul sito di Radio 24 da questo pomeriggio. Grazie dottor Besozzi per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a dopo. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie a voi, a domani.